La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, la rosa purpurea, si avvicina il momento topico della stagione cinematografica, almeno per quanto riguarda il pubblico, cioè il periodo natalizio. Arrivano tanti film nelle sale, questa settimana anche piuttosto interessanti, e allora noi cominciamo con la nostra mezz'ora di cinema con un film che io mi sento di definire il film della settimana, di consigliare caldamente. Si intitola Still Life, è passato all'ultima mostra del cinema di Venezia con grande successo di critica e di pubblico, come si usava a dire una volta. Lo dirige Uberto Pasolini, che fra poco sentiamo, che nel suo carniere professionale ha messo lo zampino in film come Full Monty, oppure come Machan, che fu un altro grande successo qualche anno fa. Lo recita quasi interamente con il film addosso Eddie Marsan, un grandissimo attore. Racconta la storia di un signore piccolo ma con il cuore molto grande, che si chiama John May, funzionario comunale dedito alla ricerca di parenti di persone morte in solitudine. Un uomo che, come dire, cerca di far sì che ai funerali, all'ultimo saluto, alle esequie di questi poveri cristi morti chissà in quali condizioni e comunque in solitudine, ci sia qualcuno, magari per piangerli, magari per salutarli, magari per dirgli addio. E questa è la sua vera ragione di vita, una ragione di vita che si sgretola ma che lo fa ripartire nel momento in cui i tagli, che ci sono un po' dappertutto, decidono appunto di chiudere questo ufficio e quindi di lasciare per strada quest'uomo. Sentiamo questa clip, poi ne parliamo col regista. Questo ufficio si occupa di rintracciare i parenti di chi è morto nel municipio. Ecco. Cara mamma, ti ringrazio molto del bellissimo regalo. Quindi c'è una figlia? Con tutto il mio amore. Ah, Susie. Susie è la gatta. La firma è l'impronta della zampa. Le viene in mente qualcuno che lo abbia conosciuto? Che magari avrebbe voglia di partecipare al suo funerale? No. E lei non vorrebbe? No. Uberto Pasolini, grazie per aver accettato il nostro invito qui alla Rosa Purpurea. Come nasce questa straordinaria idea di Still Life? Buongiorno e grazie a voi. L'idea è molto semplicemente: ho letto un articolo, un'intervista a uno di questi impiegati comunali che hanno per l'appunto questo mestiere a Londra, un mestiere che però purtroppo esiste dappertutto nel mondo e in particolare sempre più necessario nella nostra società moderna, caotica, egoista delle grandi città. Mi ha colpito moltissimo queste immagini di queste tombe abbandonate, questi funerali dove non c'è nessuno. E ho cominciato a fare quello che per me era una indagine più sociale, che poi è diventata gradualmente una scoperta o almeno uno studio molto più personale di cosa vuol dire la solitudine, di cosa vuol dire vivere senza un contatto umano. E il film è diventato molto molto vicino a me spiritualmente, o almeno emotivamente. Mi sono sentito molto egoista e mi sono provato a allargarmi di più, a essere più disponibile col mio prossimo, sia in famiglia sia col prossimo che non conoscevo. Non è un film triste, non è un film deprimente, assolutamente è un film sulla vita, un film sull'importanza di essere più coinvolti nella vita degli altri, più presi dal prossimo e soprattutto a permettere al prossimo di entrare nella propria vita, nella nostra vita, anche per ragioni egoiste, perché la vita diventa più interessante, più coinvolgente, più viva. Grazie Uberto Pasolini, andate a vedere Still Life nei cinema italiani, grazie ancora. Grazie a voi, grazie. E allora è arrivata la prima finestra per giocare insieme, come sempre, con un film da indovinare e da vincere. Oggi un film di un grande maestro del cinema. Cominciamo a sentire questa clip. Heil myself. Ecco, avete sentito, è in originale perché il film che vincerete è in originale con i sottotitoli in italiano, con una versione appena restaurata. C'era questo buffo saluto Heil Hitler, e lui che impersona Hitler che dice Hi myself. Ecco, di questo grande maestro vi aiuto un po' oggi, perché tra la clip originale e il fatto che sia stato un capolavoro però di qualche tempo fa, avete bisogno di un piccolo indizio. Si diceva che questo regista avesse il tocco magico. La Rosa Purpurea, @radio24.it, diteci di che film si tratta, provate a vincere una copia di questo film, più tardi vi darò un altro piccolo aiutino. Torniamo a parlare di cinema in sala, delle novità di questo ricco fine settimana ormai prenatalizio. Con noi c'è Boris Sollazzo, ascoltiamo subito una clip tratta da Lo Hobbit. Davvero, i racconti e le canzoni non rendono giustizia alla tua enormità, o Smaug, l'immenso. Allora, Lo Hobbit, la desolazione di Smaug, secondo episodio della nuova maratona di Peter Jackson, altri 2 ore e 40 di Elfi e compagnia bella. Allora, Boris, ben ritrovato, 2 ore e 40 di tempo guadagnato, perso, necessario, com'è? Tempo perso, lo dico da amante del Jackson, del Signore degli Anelli, amante di questa storia e di questo scrittore, ma francamente il problema grosso è che quando Jackson affrontò il Signore degli Anelli affrontò l'opera migliore di Tolkien, adesso va a prendersi comunque un'opera arrivata anni prima, un'opera ancora immatura, un'opera molto meno complessa, a cui però dedica sia la migliore tecnologia, sia la stessa quantità più o meno di minuti che ha dedicato agli altri. E questo provoca assolutamente uno scollamento tra il reale spessore dell'Hobbit e l'impegno che ci mette Jackson. In più Jackson sembra francamente molto più distratto e meno interessato alla storia, e alla fine viene un favolone fantasy, fracassone, soprattutto molto molto noioso purtroppo. Fra poco, dopo la viabilità, parliamo di e con Leonardo Pieraccioni. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme per parlare di un fantastico Via Vai, il ritorno di Leonardo Pieraccioni in piena epoca natalizia, insomma, in clima di commedie, magari non più di cinepanettoni, anche se un certo ritorno mi sembra di vederlo in un certo senso. Leonardo Pieraccioni continua nella esplorazione di se stesso, cioè a crescere come uomo e a cercare di raccontare storie che facciano più o meno pandan con la sua età anagrafica. Leonardo si avvicina ai 50 e allora racconta una cinquantenne, un quasi cinquantenne, in improvvisa crisi matrimoniale con la moglie, improvvisa e anche indesiderata, che si trova a condividere un appartamento con 4 giovani, 4 universitari, con le loro speranze, con i loro pregi e con i loro difetti, e soprattutto con la differenza anagrafica che qualcosa vuol dire. Ovviamente il buon Leonardo Pieraccioni si comporterà più da fratello maggiore che da padre, le cose andranno avanti così. Un film che mi ha convinto poco, devo dire, essere molto sincero. Questo è un fantastico Via Vai, deboluccio nello sviluppo, nella sceneggiatura, poco più che un piccolo collante per tenere insieme i momenti, diciamo, che si volevano comici di questo film, e soprattutto una certa così differenza di tono con un Pieraccioni che in fondo alla fine racconta sempre un po' il suo personaggio, non riesce mai ad affidarsi fino in fondo a un personaggio veramente scritto, veramente diverso da sé. Tanto che nel film la battuta più bella è quella più acida, che gioca molto sull'equivoco. In crisi matrimoniale, coniugi Pieraccioni, chiamiamoli così per semplicità, che a un certo punto vorrebbero forse, soprattutto lei, che essere nautieri, qualcosa di diverso, e allora gli dice questo. Sai che la Cecilia con il marito si dicono le parolacce? Testa di cazzo. Buonanotte, va. Ecco, Pieraccioni ha sbagliato la parolaccia. Le parolacce chiaramente di cui si parlava erano quelle che dovrebbero vivacizzare un po' l'amplesso, invece così chiaramente ha freddato tutto. Boris, hai sentito Leonardo Pieraccioni, adesso fra po' sentiamo l'intervista, dammi 30 secondi di tuo giudizio sul film. Ma il problema secondo me è che in Italia spesso i ragazzi, i giovani vengono raccontati col paternalismo nostalgico che abbiamo visto in Moccia, in Universitari appunto, e adesso in Pieraccioni con Un fantastico via vai. Pieraccioni sicuramente fa un lavoro migliore di quello fatto in Universitari, il problema è che sembra completamente scollato sia da quello che lui aveva fatto in passato, perché era un ritorno al passato, cioè i laureati, sia dalla realtà normale. Vuole fare una favola divertente. La favola c'è un po', il divertimento molto meno, mi sembra che l'ulteriore tra virgolette rammollimento dovuto probabilmente alla paternità lo fa essere anche meno cinico di prima, quindi anch'io mi associo poi a tutto quello che hai detto e non mi ritengo molto molto soddisfatto. Però andiamolo a sentire allora Leonardo Pieraccioni che cosa ha detto proprio al microfono di Boris Sollazzo. Cos'è, un modo per tornare giovane o per far maturare i giovani, Un fantastico via vai? Beh, diciamo che sarebbe bellino in quei 10 giorni della storia che succedessero tutte e due le cose. Il mio personaggio che va via perché è buttato fuori di casa dalla sua moglie, per cui non ne ha assolutamente colpa, vive per 10 giorni in quei batticuori, quei punti interrogativi dei ventenni, e i ventenni sicuramente ascoltano all'inizio con un po' di diffidenza e poi dandogli invece un pochino più di fiducia questo babbo giovane, questo fratello grande. La cosa importante nel film e nella vita sarebbe capire il limite, cioè non spingersi oltre con la frequentazione di ventenni e credendosi uno di loro, ma tornare insomma nei ranghi e in questo caso dalla moglie. Tu sei sempre stato un talent scout, in questo caso però proprio hai preso una schiera, quasi la squadra primavera, nel senso hai voluto puntare ancora più fortemente sui giovani, sulle facce sconosciute, anche questo è il segno di una, tra virgolette, maturazione? Beh, sicuramente i 4 protagonisti, essendo dei ventenni, avevano fatto anche delle altre cose, però non così di grande visibilità come spero invece sia il film. Mi sono accorto che ci sono una serie di attori che vanno dai 20 ai 25 anni preparatissimi, fortissimi. Ho avuto l'imbarazzo della scelta, cosa che invece negli altri film ho faticato di più. E sono molto, credo, più preparati di quando noi si incominciava a fare questo mestiere. Probabilmente anche la tecnologia, il poter rivedere in un istante su YouTube tutte le cose che ti possono servire da lezioni, perché se te vai a vedere, se vuoi fare questo mestiere e vai a vedere in un pomeriggio tutta Monica Vitti, è chiaro che qualcosa ti rimane. Sotto questo punto di vista questi 4 ragazzi sono fantastici. Qual è la tua caravella Santa Maria, quella di Leonardo Pieraccioni? La mia caravella Santa Maria è Firenze, da sempre. Andare a Firenze, vivere questo lavoro da spettatore e con grande educato distacco. Per cui io lì sopra ci ho fatto un film, perché se te hai visto Il pesce innamorato, dopo il casino totale, il travolgimento del ciclone, e nel caso del film era lui che vende tante copie di un libro, lui si voleva fare, se la fa, questa casetta in mezzo al bosco. La mia casetta in mezzo al bosco, la mia caravella è stare in campagna a Firenze. Leonardo Pieraccioni alla Rosa Purpura, Un fantastico via vai nei cinema italiani. Grazie a Boris Sollazzo, ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Allora, giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del nostro film molto misterioso di oggi. That's not in the script. Whenever I start to tell a story, you finish it. If I go on a diet, you lose the weight. If I have a cold, you cough. And if we should ever have a baby, I'm not so sure I'd be the mother. Allora, avete sentito, sono due attori che stanno parlando. Vi ho sentito prima la clip di Hitler, adesso due attori, un regista di cui si diceva che aveva il tocco magico, anzi si diceva il tocco di... chiaramente il regista dovete dirlo voi, anzi dovete dirci di che film si tratta. La Rosa Purpura è @radio24.it. Settimana prossima sveleremo tutto. 7 giorni fa avevamo giocato così. È sempre stato al calduccio sotto il mio braccio. Mi ha tenuto compagnia durante questo lungo viaggio. Ah, vedete, sta facendo cotò all'imperatore. Si trattava dell'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, che torna in una versione straordinaria in Blu-ray 3D, quindi davvero per gli amanti della grande tecnologia applicata all'on video. L'hanno indovinata e vinta Giampaolo Gallini di Roveleto di Cadeo, provincia di Piacenza, e Marco Salzano di Napoli. Saranno loro a ricevere la copia di questo Blu-ray 3D, della quale parliamo con un collega, un amico che ritroviamo dopo qualche tempo e a cui faccio un caro augurio, ovvero Claudio Pofi, il nostro super esperto di on video, che è qui con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, sì, un saluto agli ascoltatori. Bene, il capolavoro di Bertolucci ha beneficiato di un nuovo telecinema con risoluzione 4 volte superiore all'attuale alta definizione, restituendo sicuramente maggiori dettagli e particolari. È un'edizione che però ha fatto storcere il naso, diciamo, a più di un appassionato, perché il formato dell'immagine non è quello originale, ha una sensibile perdita di informazione ai lati dei fotogrammi, perché l'immagine stessa è stata rivista proprio dal direttore della fotografia del film, Vittorio Storaro, che ne curò all'epoca la realizzazione. È un film comunque molto importante perché offre questo esclusiva possibilità di visionare il film in 3D, è comunque compatibile e bidimensionale, sicuramente si può rivivere il film con maggiore coinvolgimento, c'è una doppia traccia DTS ad alta risoluzione, italiano e inglese, sono entrambe notevolissime, purtroppo però non ci sono extra. E allora, questo L'ultimo imperatore, per quanto concerne invece le uscite a un video di questo periodo prenatalizio, ovviamente copiose, dobbiamo segnalare anche l'uscita Disney forse più attesa, l'ultimo film Disney Pixar passato all'inizio della stagione, ovvero Monsters University, il prequel di Monsters & Co., che arriva appunto in edizione DVD e Blu-ray. Claudio. Sì, come da consuetudine Disney, edizione un video in alta definizione si fregia di più offerte, c'è quella bidimensionale anche in un cofanetto di metallo da collezione, oppure con incluso l'esclusivo Blu-ray tridimensionale compatibile solo con TV e lettori 3D, sono tutte edizioni di grandissima qualità video da riferimento, resa da sala cinema, certo un maggior coinvolgimento per la versione 3D. La sezione audio è più che mai interessante perché offre questa innovativa traccia in italiano, 8 canali Dolby Digital Plus, e permette comunque di ascoltare anche in Dolby ad alta risoluzione, sempre 8 canali in inglese, sono tutte e due notevolissime tecnicamente. Attenzione agli extra, perché solo le due versioni bidimensionali contengono un Blu-ray di extra con tanti approfondimenti sulla lavorazione, tra cui scene tagliate e gallerie artistica, mentre nell'edizione 3D il disco con gli extra è assente, sono disponibili solo il cortometraggio L'ombrello blu e il commento al film degli autori. E allora, per chi ci sta seguendo in questo momento in radio, andate sulla nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, trovate una domanda alla quale rispondendo, i primi ascoltatori che risponderanno avranno il piacere di ricevere un fantastico peluche originale Disney Store dei personaggi di Monsters Co., quindi, come dire, tanta roba, anzi di Monsters University, perché ce ne sono molti di più di personaggi in questo film. Quindi connettetevi, mettete mi piace se non l'avevate ancora fatto, e così settimana prossima vi dico chi si becca il peluche dei mostriciattoli di Monsters University. Grazie a Claudio Pofi, e a risentirci, perché ci risentiremo con Claudio nelle nostre puntate speciali del giorno di Natale e del giorno di Capodanno, nelle quali faremo un po' il punto sul meglio del 2013, su quello che ci aspetta nel 2014. Ciao Claudio. Ciao Franco, a presto. E questo allora per quel che concerne la parte on video, ma ci sono sempre i nostri amici di Film TV con le segnalazioni dei più bei film da vedere dai palinsesti televisivi della prossima settimana. Oggi con Giulio San Giorgio abbiamo scelto una vera grande chicca di Luchino Visconti, che si intitola Le Notti Bianche. Ciao Giulio. Ciao Franco, ben ritrovati ai radioascoltatori. Sì, parliamo delle Notti Bianche, domenica su Rai Movie alle 7.05. Luchino Visconti, un Luchino Visconti tratto dal racconto di Dostoevsky, un film che non è, come nello scrittore, una tragica storia d'amore, ma invece la storia di un amore che nasce e che viene umiliato, di un sogno che viene spezzato in una meravigliosa e tristissima Livorno nebbiosa e claustrofobica ricostruita a Cinecittà, e la storia di un uomo che, come spesso accade nei film di Visconti, vorrebbe uscire dalla sua condizione ma viene sconfitto sotto gli occhi freddi ma pieni di compassione trattenuta dell'autore. Un film davvero imperdibile. Assolutamente imperdibile, lo ricordiamo, Le Notti Bianche, domenica 7.05 del mattino, Rai Movie. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora di cinema qui su Radio 24. Non mi resta il tempo che per salutare Peter Bescapè in regia, Isotta Scenna in redazione, e darvi appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Franco D'Assisi.